e occhio uno stella, carino piccolino con lo sguardo la bambina. Io non lo so, no, no, no, per un donna solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco un parchino dove non si fa attenzione perché c'è che l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, e poi potevo rubare l'emozione dell'amore. You know I'm searching. Dell'amore, tu come stai? Tu come stai?